I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa è la quarta e ultima puntata della Maschera Bianca, il percorso della coordinamenta verso l'8 marzo. Nella prima puntata abbiamo parlato dei nessi fra l'integrazione, quella che la nostra società pretende dai migranti e dalle migranti, e l'emancipazione, quella che questa società pretende da noi donne e dalle diversità. Nella seconda puntata abbiamo parlato nello specifico dell'integrazionismo, nella terza dell'emancipazionismo, e questa ultima puntata ha per titolo Emanciparsi dall'emancipazione emancipata. Come mai abbiamo dato questo titolo? E adesso ve lo spieghiamo, perché oggi nella società, nella stagione neoliberista, la nuova frontiera del perpetuarsi della società patriarcale passa anche attraverso la cooptazione di donne che in cambio della loro promozione personale vendono le altre donne e svendono la lotta femminista e spacciano questa e tutto questo e la loro promozione personale per emancipazione. Il problema è che in questo modo si fornisce un paravento dietro il quale la società patriarcale neoliberista può nascondere i propri obiettivi reali, che sono in effetti l'inasprimento della disoccupazione, la precarizzazione della vita, le crescenti disuguaglianze, le guerre umanitarie, il ruolo di cura da cui dicono di voler affrancare le donne, ma in cui invece viene prepotentemente confermata la stragrande maggioranza. E questi obiettivi in effetti sono inconfessabili, non si possono dichiarare pubblicamente, ma si veicolano così come emancipazione, come transizione che dovrebbe condurre a una società migliore, o meglio al miglioramento di questa società, perché questa società viene veicolata in fin dei conti come l'unica società possibile e l'unica modalità, non solo accettabile, ma l'unica modalità che può avere un senso è quella di collaborare con le istituzioni al via di migliorarle e di ottenere un risultato migliore e comunque un progresso continuo, no? Diciamo che la soluzione non è certo rifiutare l'emancipazione, perché le donne fanno e devono fare, se vogliono, qualunque lavoro, lo fanno bene o male come i maschi, però non hanno portato e non possono portare nelle istituzioni nessun cambiamento. Il giudizio politico su quello che fanno invece è giusto, doveroso, auspicabile e necessario. Cioè non è che siccome sono donne noi sospendiamo il giudizio, no, tutt'altro, il giudizio lo dobbiamo dare e dobbiamo anche smascherare il ruolo che ricoprono e il lavoro che svolgono. Il percorso emancipatorio, così come si è realizzato, infatti ha portato tante donne a legarsi profondamente con la struttura di potere, a diventare attive componenti dell'oppressione sulle altre donne, no? Sono più realiste del re e attive nel mantenimento dei sistemi di controllo. Per cui l'uso strumentale, oltretutto, dell'oppressione di genere ha portato alla creazione di percorsi privilegiati, no? Tipo quote rosa, utilitaristiche pari opportunità, che hanno stravolto e screditato nel comune sentire la parola femminismo, perché il femminismo è stato legato a queste soluzioni categoriali, a queste rivendicazioni corporative. Oltretutto si è persa volutamente ogni lettura di classe e si viene inserita, cioè le donne vengono inserite in una moltitudine indistinta che a tutti i livelli dovrebbe essere gratificata per le conquiste ottenute. E per questo questa società e i suoi alfieri socialdemocratici e riformisti sono, al di là delle belle parole che sbandierano ai quattro venti continuamente, sono contro le donne e contro il femminismo. Per cui è per questo che noi abbiamo tentato in questo percorso verso l'8 marzo lo smascheramento di queste modalità e di questa nuova e molto forte, poi tra l'altro, modalità che ha messo in atto questo tipo, la fase attuale del capitalismo, no? Per questo adesso vi proponiamo la lettura di un documento che abbiamo ricevuto, che abbiamo trovato molto interessante, perché oltretutto viene sbandierato ai 420 che questa lotta per l'emancipazione, questa lotta per i diritti, questa ondata nuova di relazioni delle donne con le istituzioni attraverserebbe tante nazioni e tutto il mondo conosciuto, no? Per cui ci rimbalzano notizie che vengono dal Sud America, dal Centro America, da altre parti del mondo in cui le donne stanno portando avanti lotte similari. Tant'è vero che il 25 novembre, per esempio, ci è arrivata anche dal Messico le notizie che in Messico stavano facendo una manifestazione sempre a novembre contro la violenza sulle donne, l'avevano chiamata Las Catrinas, se non vado errata, che coincideva poi con la festa dei morti che viene normalmente insomma festeggiata lì in Messico, e c'erano le donne che manifestavano, le foto delle donne che manifestavano contro la violenza per le strade, mascherate con queste maschere particolari che usano loro. E dopodiché ci è arrivata notizia di un congresso che c'è stato in Messico, il primo congresso femminista nel Chiapas, e che su tutta una c'era un ordine del giorno, un programma su tutta una serie di argomenti. Però nessuno ci ha mandato invece e le notizie, o comunque ce l'hanno mandate, ma tramite percorsi, i soliti percorsi che non sono che non vengono sbandierati ai 420, che non hanno visibilità come al solito, che in Messico c'è anche altro. C'è per esempio un gruppo che si chiama Comando Femminista Informale di Azione Antiautoritaria, e una sigla che si chiama COFIA, e che agisce proprio in Messico e che fa dei discorsi che sono estremamente condivisibili e molto diversi da quelli che vengono propagandati normalmente sia qui che altrove. L'ultimo documento, i documenti di questo gruppo li potete trovare sul sito Anarco Queer, tutto attaccato. Sono dei documenti che vanno dal 2014, quando è stato formato il gruppo, al 2017, cioè l'ultimo documento, questo di cui parleremo oggi, è di gennaio, di gennaio di quest'anno, del 2017. Quindi ve li potete andare a vedere. E questo gruppo che si firma poi, all'inizio si è fermato Lupe la camelina, non sappiamo di preciso Lupe la camelina che cosa voglia dire, pensiamo che sia un nome, un riferimento loro. Dopodiché quest'ultimo documento che hanno mandato si chiama, l'hanno firmato come Ana la mariposa negra, e però il gruppo è sempre lo stesso. E allora, che cosa ci dice questo documento che ci è arrivato? Dice: il comando femminista informale di azione anti-autoritaria rivendica l'attacco contro l'istituto delle donne di Città del Messico. E questa azione è stata fatta il 21-12 del 2016. Dopo mezzanotte, attorno alle 2 di notte, il 20 dicembre 2016, abbiamo collocato presso l'Istituto delle Donne di Città del Messico, in via José María Izazaga, 148, un esplosivo che è esploso efficacemente provocando seri danni all'ingresso dell'edificio. Allora, siamo andate subito a leggere che cosa queste compagne ci dicono. Dice: le strade della vita sono diverse da come pensavo. Un intreccio di dominazioni multiple disseziona quotidianamente il corpo delle donne. Noi ci chiediamo: com'è possibile che molte donne, la maggioranza, decidano di accettare docilmente questo bisturi sociale che hanno addosso, a volte quasi desiderandolo? Abbiamo sentito dappertutto discorsi da parte di femministe che si felicitano dei progressi, fra virgolette, verso l'uguaglianza tra i sessi, sempre fra virgolette. Ma vediamo nel frattempo le chiese piene di donne che si offrono docilmente in ginocchio. Ci arrivano notizie di grandi manifestazioni contro la violenza sulle donne. Vediamo però i tribunali pieni di donne disposte ad abbandonare la propria volontà e il proprio destino in mano ad esseri spregevoli che accettano come superiori. E che cosa è più violento della sottomissione e l'autosottomissione della volontà umana? La crudeltà femminicida che tocca noi, le nostre sorelle, figlie, cugine, zie, amiche, compagne, madri, ci fa male, mentre allo stesso tempo vediamo i congressi e i movimenti femministi combattere per ottenere più leggi, più categorie penali, più accordi con lo Stato, quando è proprio l'esistenza delle leggi e del sistema di dominio di rappresentazione gerarchica statale lo scenario sine qua non di questa violenza. Se queste femministe chiamano questa postura di sottomissione emancipazione, beh, allora ci si dovrà emancipare dall'emancipazione emancipata. Ed è questo che ed è il titolo che abbiamo dato a questa puntata, ed è anche il titolo che abbiamo dato all'iniziativa che faremo venerdì questo all'ex 51, nello spazio sociale occupato dell'ex 51, in via Bacciarini 12 qui a Roma, dalle 17:30 in poi, e in cui vogliamo proprio discutere dei nessi tra integrazione ed emancipazione, tra le modalità neoliberiste dell'integrazionismo e le modalità neoliberiste dell'emancipazionismo, e smascherare quelle che sono le modalità attraverso cui il dominio patriarcale nella stagione neoliberista continua a perpetuarsi attraverso anche le donne che si prestano e si diciamo e vendono la loro le loro possibilità al sistema, e in questo modo perpetuano il patriarcato, e in questo modo svendono i percorsi femministi, ma in questo modo anche aprono ad una svendita delle donne tutte, perché propongono una modalità di approccio a questo tipo di sistema che loro dichiarano come positiva e l'unica possibile. Allora adesso vi vogliamo leggere un'altra parte di questo documento, perché è pieno di spunti, è un documento abbastanza lungo, ma è pieno di spunti e pieno di sollecitazioni e pieno di verità, oltretutto, e quindi è un documento che dà da riflettere moltissimo, anche per il fatto che loro hanno avuto il coraggio di esplicitare e di dare gambe alla loro dichiarazione teorica, di unire pratica e teoria. Per esempio, nel punto 2. Dicono, nell'aria c'è un'idea falsa quanto perversa che ci ricorda i dibattiti ipocriti del secolo scorso sulla partecipazione delle donne alla politica. Sta prendendo forza l'immagine secondo cui basta la semplice presenza delle donne in questa piramide gerarchica del potere per purificare ogni residuo patriarcale. Anzi, si costruisce un immaginario sociale con questa idea assurda, per cui i seggi, i troni presidenziali o le sale dei tribunali occupati da donne saranno automaticamente sufficienti per combattere le disuguaglianze diseguali, ridurre la corrotta corruzione o impartire la giusta giustizia. Vogliamo una candidata, vogliamo donne giudice, vogliamo rappresentanti donne al congresso, gridano euforici gli ipocriti, gli sprovveduti e i complici. Ora, certamente, nessuno potrebbe accettare la sciocchezza di ritenere noi donne intellettualmente meno capaci rispetto agli altri di realizzare questi infami lavori. Ed è precisamente questo il punto. La presenza delle donne all'interno del potere politico non può di per sé comportare il minimo cambiamento nella composizione di un sistema di diseguaglianze sociali, per la semplice ragione che la società in cui ci è stato imposto di vivere è basata proprio su tali diseguaglianze. La società stessa è corrotta e ingiusta, e senza queste caratteristiche la società smetterebbe di esistere. Altrimenti, come potrebbe sopravvivere, se non fondandosi sulla disuguaglianza, una società basata sullo spossessamento della vitalità altrui? Le nostre argomentazioni si possono comprovare anche solo dando uno sguardo al passato. In Messico, dalla metà del secolo scorso, noi donne abbiamo il diritto di voto e abbiamo via via occupato i seggi, i tribunali, i posti importanti nella ripartizione del potere politico. Ma forse da questo si deduce un qualche tipo di miglioria nella nostra penosa situazione di sottomissione, violenza, fame e miseria? Sembra piuttosto che queste donne, una volta arrivate a questi ignominiosi scranni, come se avessero bevuto un intruglio velenoso, si mostrino indifferenti davanti alla nostra terribile situazione e che non esitino perfino a mostrarsi apertamente nostre nemiche, guardandoci con sdegno dall'alto della loro posizione di privilegio. Dopodiché saltiamo alcuni pezzi e passiamo anche a un altro punto importante che abbiamo indagato anche noi, no? Dice, e un altro ancora, finché esisterà nelle nostre idee il principio dell'autorità gerarchica, esisterà la disuguaglianza e il potere politico è la mera dimensione organizzatrice del principio di autorità. Dunque non c'è nessuna via d'uscita né destinazione, però abbiamo sentito dire in giro che pensano di mandare una donna indigena come carne da cannone per le bestie al potere. E ecco, un'altra volta, il disprezzo per le donne. Ci trattano come appendici di qualcosa o di qualcuno. Eccoli che si mettono a usare i nostri corpi come se fossero i loro stracci da pavimento. Ma speriamo che le femministe belle e brave, tra virgolette, non ci apostrofino come antifemministe e non vogliano mandarci a rogo, anche se sicuramente non mancherà qualcuna che lo farà. Dopotutto esiste la convinzione che essere femminista significa dipingere un bello striscione con scritto no alla violenza e sottomettiti alle istituzioni, come se le istituzioni non fossero le massime organizzatrici della violenza. Allora, il documento è ancora lungo e apre tanti altri scenari, ma noi ne discuteremo alla nostra iniziativa di venerdì, non solo di questo, ma di tante altre cose che riguardano la situazione attuale del femminismo, e quindi vi aspettiamo e vorremmo aprire scenari di dibattito e di confronto. Ciao a tutte, ciao a tutti.